Registrazione a cura di Scatola Nera. Il contenitore multimediale. Grazie a tutti voi di avermi dato l'opportunità, l'occasione di essere qui e di parlare un po' di questo lavoro, ma più che altro di cosa tratta questo libro, librino, insomma, che è a metà strada fra un instant book e un saggio. È stato scritto, dunque, già non mi ricordo, ma nei mesi di febbraio, da febbraio a inizio aprile dell'anno scorso, proprio nel pieno della crisi finanziaria, e che si conclude questo libro subito dopo il vertice del G20 del 3-4 aprile a Londra, dove appunto i 20 paesi che rappresentano sia i paesi occidentali, l'ex G8, sia i paesi emergenti, si sono incontrati per affrontare in modo così strategico la crisi finanziaria scoppiata nel settembre-ottobre dell'anno precedente, cioè del 2008, soprattutto nel momento in cui una delle più grandi banche di investimento, la Lehman Brothers, era fallita e aveva scatenato letteralmente la corsa al ribasso su tutti i mercati borsistici mondiali. Allora io partirei da dove il libro finisce, in un certo senso, per poi magari vedere in che misura alcune cose che sostengo in questo saggio hanno ancora una validità oppure no. Dopo l'aprile appunto dell'anno scorso, dopo il G20 di Londra, cosa è successo? È successo che prima di tutto i paesi riunitisi a Londra hanno fatto esplicitamente capire alle banche e alle grandi banche che avrebbero fatto tutto il possibile per salvarle, per evitare un'ondata di fallimenti come quella che era iniziata appunto qualche mese prima. Questo ha significato per le banche avere la certezza di poter riprendere ad agire in modo sconsiderato, cioè quindi cercando di massimizzare i profitti sotto la protettrice delle banche centrali, quindi nel nome di quello che in gergo economico si chiama, il finanziario si chiama azzardo morale, e cioè il fatto che tu sei autorizzato, legittimato a reiterare, ripetere i comportamenti che in precedenza hanno portato a crisi, a fallimenti o svalutazioni, per il semplice fatto che sai di essere comunque garantito e protetto da chi ti sta sopra, cioè dalle banche centrali. Di fatto quello che è successo a partire dall'aprile e dal marzo di fatto dello scorso anno è stata una ripresa impressionante dei mercati finanziari, impressionante al punto che tra marzo e la fine del 2009 i mercati finanziari come l'S&P 500, Wall Street, lo Stock Exchange Market, il Nasdaq e anche altri mercati borsistici nel mondo si sono rivalutati, hanno conosciuto un aumento dei rendimenti pari al 60-70%, una cosa mai vista nella storia finanziaria mondiale. Sicuramente nel corso dell'ultimo secolo e mezzo, una ripresa quindi dei profitti assolutamente sbalorditiva in poco tempo, in 6 mesi. Questa ripresa dei profitti bancari e finanziari, cioè dei profitti delle banche, dei fondi di investimento, dei fondi dei cosiddetti hedge funds, che sono i fondi che investono in titoli ad alto rischio, questa ripresa dei profitti, dei rendimenti, si spiega alla luce di quello che sempre in gergo monetario si chiama il carry trade, che in italiano si chiama l'arbitraggio. In pratica l'arbitraggio cos'è? Quando una banca centrale come la Federal Reserve ti presta le banche liquidità ai dei tassi come sono a tutt'oggi prossimi allo zero, tu banca che ricevi questi soldi dalla banca centrale, cosa fai? Li prendi, li investi su i titoli che hanno dei rendimenti anche non necessariamente troppo elevati, e ci fai un profitto. Per definizione non bisogna neanche essere particolarmente un genio per fare profitti quando ti prestano i soldi praticamente gratuitamente, tu li piazzi su un qualche titolo azionario, obbligazionario, e questi ti rendono un differenziale che rappresenta il tuo profitto. Questo è quanto è accaduto e sta accadendo da qualche mese a questa parte. L'altra cosa che è successa è il carry trade, appunto, ed è un processo, un meccanismo che è successo, che è accaduto, che è stato utilizzato anche negli anni 90, nei primi anni 2000, dal Giappone o in Giappone, e consiste in questo: tu prendi in questo caso dollari in prestito che hanno un tasso di interesse molto basso, converti i dollari in un'altra moneta e con altre monete compri dei titoli che hanno dei rendimenti elevati. Questo ha fatto sì che la ripresa dei mercati finanziari sia stata una ripresa globale, che è avvenuta in tutti, non solo negli Stati Uniti, ma appunto in tutti i paesi, ed è stata una ripresa che ha comportato ovviamente anche un basso valore del dollaro, perché appunto nel momento in cui tu li converti in un'altra moneta per acquistare titoli su altri mercati, cosa fai? Vendi dollari, quindi ne abbassi il valore. Questo per dire che cosa, in buona sostanza? Che noi in questi mesi abbiamo visto il ripetersi degli stessi meccanismi che hanno portato alla crisi del 2008, una crisi che in realtà si è cominciato a dare i suoi primi segnali tangibili nell'agosto del 2007. È come se ci fosse un eterno ritorno della stessa logica che sottende le politiche finanziarie, al punto che oggi si parla dell'imminenza di una nuova bolla su tutti i mercati mondiali, bolla sui mercati delle azioni, delle obbligazioni, delle materie prime e del debito pubblico o dei debiti pubblici con i quali appunto gli stati sono intervenuti per il salvataggio delle banche e degli istituti finanziari nel corso di questa crisi. Insomma, si parla ancora del rischio, c'è chi dice imminente, c'è chi dice fra qualche mese, insomma, di una nuova bolla, dello scoppio di una nuova bolla come quella che si è data negli Stati Uniti, che più comunemente giustamente associata alla bolla dell'immobiliare, la famosa bolla dei titoli subprime, di cui magari parlerò tra un istante. Cosa vuol dire? Prima punto sul quale soffermarsi, che se ne dica, che sia scritto in tutti questi mesi, ed è impressionante. Io seguo piuttosto regolarmente i media, la letteratura corrente economico-finanziaria, per esempio il Financial Times nel corso dell'anno scorso è uscito con innumerevoli articoli di economisti, storici, eccetera, sulla crisi del capitalismo finanziario, dove ognuno ha avuto occasione di esprimere in modo estremamente critico e riflessivo, insomma, giudizi sulla nocività di questo capitalismo finanziario, e parlo del Financial Times, non parlo di un giornale di sinistra o di estrema sinistra, parlo di uno dei Vangeli, insomma, del capitale, e che se ne sia scritto a tale proposito e seriamente Wall Street e a Washington e in tutte, insomma, le capitali finanziarie del mondo si è temuto il crollo del capitalismo. Impressionante le cose che si leggono, le testimonianze che si leggono di quanto è accaduto tra l'ottobre del 2008 e la fine dell'anno. Lì veramente c'è chi ha temuto il peggio dal punto di vista capitalistico. Ebbene, malgrado tutto questo, noi assistiamo di fatto a un rafforzamento delle stesse logiche che hanno portato a questa crisi. Di fatto ha una riconferma dell'immanenza, della inscalvibilità del capitalismo finanziario. Questo è il primo punto sul quale riflettere. Come se non ci fosse margine di manovra, di riforma. Tutto sommato trovo stupefacente che ieri Barack Obama si sia scagliato contro Wall Street, dicendo che vuole introdurre una legge che costringa di nuovo a ritornare a quanto era stato legiferato, insomma, implementato negli anni 30, durante la grande crisi degli anni 30, e cioè la separazione fra banche commerciali e banche di investimento. Voi sapete che sotto Clinton, che fra l'altro la dice lunga, sotto un democratico, si era abolito l'obbligo di tenere separate le attività delle banche commerciali e delle banche di investimento. E cosa vuol dire? Qual è la differenza fra una banca commerciale e una banca di investimento? La banca commerciale è una banca normale, come quelle che conosciamo, dove si depositano i soldi e sulla base dei depositi si fanno delle attività creditizie di tipo commerciale, si erogano crediti, ma comunque crediti che nel caso di un'insolvenza o di una svalorizzazione sono garantiti dallo Stato, per cui i depositi in queste banche hanno una garanzia statale pubblica, proprio perché sono depositi di persone che hanno fatto dei risparmi, li hanno depositati in banca. Le banche di investimento invece fanno operazioni di investimento ad alto rischio, eccetera, senza avere dei depositi, quindi utilizzano i capitali messi a disposizione da grandi investitori e li fanno lavorare, insomma, sui mercati finanziari. Nel momento in cui come è stato a partire da metà degli anni 90 in poi, banche di investimento e banche commerciali fanno tutt'uno, come le grandi, la Goldman Sachs o la Bear Stearns o la Lehman Brothers, eccetera. Cosa significa? Significa che le attività speculative di una banca della banca di investimento o del dipartimento, diciamo, della banca che opera in questi settori ad alto rischio può mettere a repentaglio diciamo la parte sana della banca, quella che è coperta, che ha una base, insomma, di risparmi, il che significa che se fallisce costringe lo Stato, proprio in virtù della legge che garantisce le banche commerciali, costringe lo Stato ad intervenire a salvataggio di queste banche, banche che sono responsabili degli investimenti che hanno fatto e responsabili anche dell'aver trascinato nel fallimento i depositi bancari. E il fatto che Barack Obama proprio ieri abbia detto a Wall Street: io voglio ritornare a tenere separate queste banche di investimento dalle banche commerciali, è piuttosto, devo dire, inedito. Ecco, francamente nessuno se l'aspettava, perché Barack Obama è stato eletto, si è circondato di uomini della finanza. Praticamente tutti gli uomini di cui si è circondato, da Larry Summer a Geithner, insomma il ministro del tesoro, i suoi consiglieri, sono tutte persone che vengono dal mondo della finanza e in particolare da una banca di investimento, la Goldman Sachs, che è la banca che sforna, insomma, consiglieri economici, un po' come in Svizzera Merz, che era stato che aveva lavorato negli anni 70 per l'UBS, che si ritrova a fare il consigliere federale, che ovviamente quando l'UBS è andata in crisi, insomma, è come se voi aiutaste un amico, un caro amico del cuore, nel momento in cui questo si trova in difficoltà. E andando quindi contro i suoi stessi consiglieri, Obama non so, sta tentando qualcosa che naturalmente ha suscitato immediate reazioni violente di Wall Street, e adesso sarà nei prossimi mesi si sentirà parlare spesso di queste cose. A Davos penso che uno dei temi centrali sarà oramai questo, perché di cosa altro volete che si parli se non di una provocazione che bisognerà vedere se andrà in porto. Non è detto, anche con la legge sulla riforma della sanità negli Stati Uniti siamo ancora piuttosto lontani dalla sua effettiva realizzazione, però comunque la dice lunga questa uscita di Obama, intanto del fatto della situazione in cui lui, Obama, si trova, una situazione politicamente assai diversa da quella che l'aveva portato all'elezione, insomma alla vittoria in una campagna elettorale. Obama ha perso molto in questi mesi, ha perso molto perché si è fortemente sbilanciato a favore della finanza, a tal punto che una riforma sanitaria che tutti in America ritengono necessaria è stata considerata troppo cara, sicuramente dai repubblicani, ma troppo cara proprio perché comunque il deficit pubblico era già aumentato enormemente proprio in conseguenza di questi interventi a sostegno della finanza. E poi Obama ha perso molto all'interno degli Stati Uniti, ha perso molto credibilità nei confronti del popolo che l'ha eletto, un popolo che si trova da una parte con dei profitti finanziari assolutamente stratosferici, al punto che le banche adesso fanno la gara a restituire questi soldi che avevano ricevuto in prestito dalla banca centrale. Ma perché fanno gara a restituirli? Perché non vogliono avere lo Stato fra i coglioni, cioè nel momento in cui tu restituisci i soldi che lo Stato ti ha dato, lo Stato si trova nell'impossibilità di poter far leva e quindi, per esempio, imporre la riduzione dei bonus che distribuiscono, tant'è vero che la distribuzione dei bonus in tutte le banche che sono state aiutate e che adesso restituiscono i soldi, sono schizzati verso l'alto, cioè è impressionante, alla faccia di tutto quanto si è detto, scritto, eccetera, quanto questi banchieri spudoratamente si distribuiscano tra di loro bonus enormi, insomma. E quindi da una parte il popolo americano, il popolo che ha eletto Obama, si trova, vede, insomma, assiste a questo spettacolo finanziario, dall'altra parte però la disoccupazione continua a crescere, è una disoccupazione che ci vuole, che tutte queste misure non sono riuscite minimamente, neanche lontanamente, a bloccare, a frenare. La disoccupazione aumenta, siamo attorno al 10%, che poi, come tutti questi dati sulla disoccupazione, va calcolata aggiungendo un bel po' di punti percentuali, si contano tutti quelli che sono i disoccupati scoraggiati, i disoccupati di lungo periodo, i disoccupati che finiscono nelle carceri. Ci sono più di 2 milioni di persone che sono in carcere, ma perché? Sono in carcere perché rubano e perché non hanno nient'altro da fare per poter campare. E se si conta tutta questa gente, inclusi i lavoratori precari, eccetera, si arriva a delle percentuali ben oltre il 10%. E quindi capite che Obama, da questo punto di vista, si trova nella in un cul-de-sac, in un vicolo cieco, deve assolutamente reagire, e per il momento ci prova con questa proposta di legge che è qualcosa di rivoluzionario, insomma, se si guarda a quanto agli interessi in gioco, eccetera. Confesso che non sono sicuro che ci riuscirà, però penso che sia interessante tenere presente all'interno dei movimenti di lotta, di resistenza e di critica della globalizzazione. Mi sembra importante tenere presente questo aspetto, insomma, la crisi è tale, però allo stesso è tale da portare un presidente degli Stati Uniti a in un certo senso a mettersi in conflitto, in frizione comunque, e che frizione, perché il discorso che, non so se l'avete visto la televisione, che ha fatto Obama ieri sembrava il discorso di uno fortemente incazzato, e comunque la situazione è tale che lascia capire come lo scontro fra capitalismo finanziario e i suoi sostenitori, insomma soggetti e attori del capitalismo finanziario e popolazione, sarà uno scontro violento, io credo proprio violento. Penso che Obama sarà schiacciato da questo scontro, spero naturalmente per lui che possa uscirne, come dire, vincente, ma ho francamente qualche dubbio. Penso comunque che sia necessario tenere molto alta la guardia, insomma. Il capitalismo finanziario è aggressivo, è potentissimo, tiene in ostaggio praticamente tutti noi e non demorde, e che non voglia demordere, appunto lo si evince da questi giorni, da questo scontro che rischia di acuirsi fra Obama e d'altra parte anche altri premier, insomma primi ministri, che sono, non perché sono migliori, non sto dicendo questo, ma sono dal loro punto di vista, dal punto di vista elettorale, dal punto di vista del consenso, sono costretti a fare qualcosa perché lo tsunami finanziario è talmente potente che rischia di di spazzar via o comunque di delegittimare chiunque non lo assecondi o lo assecondi troppo. Ecco, questo un po' quanto è successo dall'aprile, insomma marzo-aprile dell'anno scorso ad oggi. Ripeto, siamo di nuovo in una situazione nella quale una bolla finanziaria potrebbe scoppiare e potrebbe scoppiare su una scala globale, come dicevo, la possiamo chiamare una bolla globale perché investe e coinvolge tutti i mercati, tutte le materie prime, tutte le merci, tutte, insomma, i titoli, eccetera, per le ragioni che dicevo appunto all'inizio, per quel meccanismo dell'arbitraggio, del carry trade e dei tassi di interesse delle banche praticati dalle banche centrali vicino allo zero. Allora, come si è arrivati a questa situazione? Beh, un po' tutti lo sappiamo, sappiamo che siamo arrivati alla crisi dei subprime, cioè di quei mutui elargiti, erogati negli Stati Uniti a partire soprattutto, insomma, dal 2003-2002, insomma, dopo la crisi di internet, insomma, di titoli delle imprese dot-com, che sono nate e cresciute tra il 98 e il 2000 e che avevano conosciuto anch'esse dei tassi di crescita impressionanti. I mutui subprime sono stati appunto elargiti a persone, come sapete, povere, o persone che non davano nessuna garanzia alle banche, come, non so, qualcuno di noi va in banca e dice: sì, io vorrei comprare quella casetta, ah sì, quanto ha da mettere come pagamento, come deposito, come down payment? Fa niente, ma lei lavora? Sì, lavoro, però lavoro come lavoratore interinale, eccetera, e dice: no, va bene, glielo diamo lo stesso, guardi, gli facciamo un credito praticamente che copre il 100% del valore della casa che lei acquista. E c'è da chiedersi chi è quel pazzo che non sapendo neanche se riuscirà a pagare i tassi di ipotecari, no? Dei prossimi mesi, fa un'operazione del genere. Come mai una banca commerciale, locale o immobiliare ti fa un credito? Immaginatevi, non so, una Raiffeisen locale di Biasca che fa un mutuo a qualcuno che non ha lavoro, che ha un lavoro sporadico, saltuario, e che quindi non gli garantisce assolutamente, non dico il ripagamento del principale, della somma necessaria per acquistare la casa, ma neanche dei primi 12 o 6 mesi di tassi ipotecari. Queste operazioni si fanno, e sono state fatte abbondantemente, al punto che erano le banche stesse che mandavano in giro i loro brokers a incitare la gente a fare queste, a avventurarsi, no, in questo sogno della casetta. Si fanno queste operazioni quando si prevede che il prezzo della casa che tu acquisti oggi l'anno prossimo salirà, e l'aumento del prezzo, quindi l'inflazione del bene immobiliare della casa, che in un certo senso legittima questa operazione, perché se io compro una casa oggi e so che l'anno prossimo il valore di questa casa sarà del 20% superiore a quello di un anno prima, di quando l'ho acquistata, io nel momento in cui l'anno prossimo non fossi in grado di pagare i tassi di interesse, cosa faccio? La vendo e restituisco il credito, però ci faccio un pizzo sopra, ci faccio un guadagno addirittura. Quindi in realtà la garanzia alla base di questo meccanismo, che in sé sembrerebbe folle, è quello dell'inflazione del bene in questione, no? La casa non diventa solo un valore, non è più solo un valore d'uso, cioè il fatto che viene usata per essere abitata, ma un valore speculativo, no? Io speculo sul fatto che il valore della mia casa nei prossimi mesi aumenterà. E questa speculazione è stata il motore di questa crescita del mercato immobiliare e dei crediti e dei mutui ipotecari che l'hanno alimentato. Se poi teniamo presente il fatto che le banche, per poter aumentare questi crediti, per farne sempre di più e quindi naturalmente guadagnarci eccetera, cosa hanno fatto? Hanno trasformato questi crediti in quelli che sono dei titoli, sono chiamati titoli cartolarizzati, sono dei titoli che vengono creati mettendo assieme più crediti ipotecari. Una banca ha fatto crediti a 10 persone, allora i crediti che ha fatto a queste 10 persone li mette assieme e confeziona un titolo. Questo titolo viene venduto a un fondo di pensione, per esempio il fondo pensione della città di Lugano, mettiamo, no? E cosa vuol dire? Il fondo pensione compra questo titolo che rende, perché sono titoli ad alto rischio, danno, garantiscono dei tassi di remunerazione insomma elevati, però nel medesimo tempo la banca che ha venduto questi crediti ipotecari se li è tolti dai bilanci, cioè li ha spostati nel portafoglio del fondo pensione della città di Lugano, e allora in questo momento è di nuovo pronta a fare nuovi crediti, perché si è, come dire, ha liberato il proprio bilancio dei crediti fatti in precedenza e quindi è pronta per erogare nuovi crediti, e questo naturalmente ha avuto un effetto leva, un effetto di moltiplicazione e di aumento del volume di crediti fatti appunto in questo periodo. Allora, questo meccanismo è sempre, come dire, è quello che si trova sempre nei processi di finanziarizzazione che portano alle crisi finanziarie. La finanziarizzazione di cui parla questo mio testo, non lo chiamo libro perché è un po' troppo piccolo, insomma, è un librino. La finanziarizzazione è qualcosa che esiste a partire in queste dimensioni, oddio, in modo crescente, ma insomma secondo questa logica e secondo questa logica anche espansiva, cioè che non è più solo tipica caratteristica di un paese come gli Stati Uniti, ma si è ormai ampliata su scala globale, la globalizzazione, la finanziarizzazione in questa forma, secondo questa logica di funzionamento, esiste a partire dagli anni Ottanta. Quindi è importante guardare in una dimensione storica a quello che sta succedendo oggi. Non è che è successo solo perché dal 2003 al 2006 o 2007 c'è stato questo boom dei crediti, dei mutui ipotecari eccetera, è qualcosa che risale all'inizio degli anni Ottanta, ed è importante tenere presente questa periodizzazione, perché questa periodizzazione ci fa capire altre cose. Prima di tutto che la finanziarizzazione si è sviluppata parallelamente o in seguito in tutti i casi a quella che è stata la svolta thatcheriana e reaganiana del 79 e dell'81, con la Thatcher in Inghilterra e Reagan negli Stati Uniti, e che ha avviato la rivoluzione liberista, neoliberale, che dir si voglia, che da allora caratterizza le politiche economiche, finanziarie di praticamente tutti i paesi, salvo ovviamente quelli che recentemente stanno cercando di in qualche modo sganciarsi da questa logica. La finanziarizzazione va in parallelo con l'attacco liberista allo Stato sociale, ai diritti sociali acquisiti nel corso di decenni di lotte e di conquiste dei lavoratori, e che ha visto gli stati impegnati a praticamente favorire gli alti redditi con sgravi fiscali, cioè la politica cosiddetta dell'offerta, per cui io sgravo, riduco la pressione fiscale soprattutto sui più ricchi, e in questo modo, così suona, canta, recita la teoria che sottende, che supporta questa politica economico e fiscale, la riduzione della pressione fiscale aumenta il reddito disponibile dei contribuenti, che sono risparmiatori, che sono investitori, e secondo questa teoria l'aumento dei redditi dovrebbe aumentare i risparmi, e i risparmi dovrebbero a loro volta aumentare o essere canalizzati negli investimenti che secondo i manuali di economia dovrebbero a loro volta infine creare occupazione. Questo è quanto è successo, è la filosofia liberista da 30 anni a questa parte, che però ha visto il mondo andare in ben altra direzione. I maggiori redditi generati dalle riduzioni fiscali non sono stati investiti realmente in impianti particolari, in creazione di posti di lavoro. Soprattutto i maggiori redditi non sono stati investiti in aumento dei salari, cioè della remunerazione, del fattore principale per la produzione della ricchezza. Noi abbiamo che dall'inizio degli anni Ottanta a oggi noi abbiamo una strana forbice. Da una parte i profitti sono aumentati costantemente, che sono profitti soprattutto finanziari, quelli che sono aumentati di più sono i profitti finanziari, ma sono profitti anche industriali, anche se sono aumentati meno. Però assieme i profitti finanziari e industriali sono aumentati crescentemente dall'80 fino ad oggi. E poi abbiamo invece quello che si chiama il tasso di accumulazione, cioè sono gli investimenti in capitale macchinico costante, macchine, impianti, tecnologie e salari, no? Che restano praticamente costanti. Quindi abbiamo proprio in questi ultimi 30 anni questo tipo di processo: aumento dei profitti e stagnazione dell'accumulazione. È come se l'accumulazione non si fosse data. Loro non si chiede, ma com'è possibile che aumentino i profitti ma senza un aumento dell'accumulazione, senza che l'accumulazione abbia alimentato questi profitti? È possibile per una serie di ragioni. La prima ragione è che i salari sono stati fortemente ridotti, precarizzati, congelati dal punto di vista reale, anche laddove erano salari per lavoratore a tempo indeterminato. Notate bene che questa forbice si è data anche in conseguenza degli investimenti fatti nei paesi emergenti, insomma, sfruttando quindi il bacino di forza lavoro a bassissimo costo e l'assenza di stato sociale, quindi di prelievo fiscale sui profitti. Ed è stato possibile questo processo, che è all'origine della finanziarizzazione, perché molta parte di questi profitti, come dicevo, si spiega alla luce dell'aumento del valore dei titoli delle imprese che sono quotate in borsa. Un'altra spiegazione di questo processo a forbice è il fatto che qualcosa di nuovo è accaduto nel capitalismo negli ultimi 30 anni, qualcosa che è veramente diverso da quello del capitalismo dei 30 anni gloriosi, del fordismo che si è un po' imposto su scala così perlomeno occidentale a partire dalla fine della Seconda Guerra Mondiale. Cosa è successo? È successo che le imprese hanno cominciato a realizzare profitti non soltanto attaccando, riducendo il salario dei loro dipendenti, cosa che di per sé sicuramente ha contribuito in buona parte ad aumentare questi stessi profitti, ma hanno le imprese sviluppato delle strategie di produzione di valore sempre più esterna alla fabbrica. Si incomincia negli anni 80 con il famoso attuando a livello organizzativo il cosiddetto outsourcing. Outsourcing vuol dire esternalizzare, espellere insomma dei segmenti del processo lavorativo, magari prima produttive all'interno dell'impresa, all'esterno. Non so, è come quando da noi è successo, le prime vittime di questo processo, per esempio la pubblica amministrazione, sono state le donne delle pulizie, le quali fino a un certo punto, fino a metà degli anni 90, erano personale inorganico dello Stato, e a partire da metà degli anni 90 sono state esternalizzate, cioè sono state costrette a lavorare per delle ditte esterne, private, che hanno continuato a fare il lavoro di prima, però come indipendenti. E quindi in questo modo le imprese cosa fanno? Esternalizzando, si liberano di forza lavoro che non fa più parte dell'organico, che usano e pagano quando ne hanno bisogno, e soprattutto si liberano degli oneri sociali che normalmente vanno di pari passo con il versamento del salario del personale inorganico. Questo è soltanto stato il primo passo. Hanno cominciato le imprese diciamo, una delle conseguenze di questo processo di esternalizzazione qual è stato? È stata l'emersione, insomma, l'emergenza di un nuovo soggetto nel mercato del lavoro, che sono i lavoratori autonomi, sono i freelance, no? Sono le persone che si mettono in proprio. Pensate che in Svizzera noi ancora alla fine degli anni 80 avevamo diciamo una percentuale di lavoratori indipendenti pari all'8%, su tutta la popolazione attiva l'8% era costituito da personale, da persone che lavorano in proprio. Soprattutto allora erano i medici, gli architetti, insomma i liberi professionisti. Dalla fine degli anni 80 a oggi siamo saliti fino al 16-17%, quindi capite che questo processo di outsourcing, di ricorso a fornitori esterni, ha avuto un impatto molto importante. C'è un numero crescente di persone che lavorano sempre, sono sempre dipendenti dal lavoro, dai datori di lavoro delle imprese, però hanno come statuto professionale quello del lavoratore indipendente. E quindi non hanno nessuna garanzia di poter avere delle entrate, magari lavorano per 6 mesi per un datore di lavoro e i mesi successivi non hanno lavoro, perché questi semplicemente non glielo forniscono. Quindi incomincia a cambiare proprio negli anni 80 lo stesso mercato del lavoro. E poi sempre di più le imprese hanno cominciato a esternalizzare, oltre che a precarizzare, a flessibilizzare la forza lavoro, a esternalizzare, e questo è molto interessante, tutta una serie di altre funzioni. Io faccio sempre l'esempio dell'IKEA. L'IKEA, per esempio, in sé rappresenta un modello di organizzazione capitalistica aziendale assolutamente paradigmatico. L'IKEA, per esempio, quando voi andate a comprare la libreria Billy, chi non l'ha comprato una volta nella vita, vi fate un mazzo così per montarla a casa, litigate con la moglie, non trovate più i pezzi, poi vi spaccate la schiena, se non qualcos'altro, come è capitato a me, perché per spostarla vi prendete degli strappi, eccetera. Vabbè, questo cosa significa? Significa una esternalizzazione di non solo di costi, no? Variabili e fissi, che sono appunto trasposti in ambito, come dire, familiare, privato, insomma, no? Nella sfera del consumatore, acquirente, eccetera, ma significa anche un trasferimento è tutto asimmetrico. Vi faccio solo ad esempio, per questo scherzetto dalla Bildi che ci montiamo noi a casa e altre cosucce del genere, l'IKEA ha fatto un risparmio, fa un risparmio annuale di 500 milioni di dollari, va bene? Al quale però non corrisponde una riduzione dei prezzi dei beni che noi, degli articoli che noi compriamo all'IKEA di pari dimensioni, no? Tant'è vero che il lavoro che noi facciamo per montare la Billy è un lavoro gratuito, quindi diciamo che in questi anni, se vogliamo, si è arrivati al paradigma IKEA, al modello IKEA, ma lo stesso posso dirlo di Google, lo posso dire di qualsiasi impresa internetiana, che cosa fa? Che produce innovazione semplicemente cooptando in modo gratuito, libero, eccetera, gli utenti, insomma i fruitori, gli utilizzatori di Google, lanciando concorsi di idee, eccetera, eccetera, che sono fenomenali, che in cui si invera l'intelligenza collettiva, l'intelligenza innovativa degli utilizzatori di Google, che però appunto è basata sull'ambiguità del sentirsi partecipe della crescita di Google, però un partecipante, come dire, che ha solo in questa sua senso di partecipazione la fonte di una gratificazione che però è altamente produttiva per quanto riguarda Google. Guardate che questo modello della partecipazione, insomma la Fiat, la 500, che ben conoscete, la nuova edizione 500, è stata disegnata aprendo un concorso di questo genere con i futuri potenziali o interessati acquirenti della 500, i quali hanno mandato delle idee alla Fiat per trovare delle soluzioni estetiche, eccetera, di questa 500, nuova edizione della 500, che poi è stata fabbricata sulla base di questa intelligenza e proposte, suggestioni e suggerimenti creativi, innovativi da parte dei consumatori. Allora, noi abbiamo assistito in questi ultimi 30 anni, questo è il post-fordismo, alla crescita di un nuovo capitalismo che è il capitalismo basato sulla messa al lavoro del consumatore, sulla messa al lavoro di noi e soprattutto della nostra vita. Si dice che nel post-fordismo, nel capitalismo odierno, insomma, la vita venga messa al lavoro, la vita in quanto forme di vita, in quanto relazioni, in quanto affetti, in quanto passioni, in quanto desideri, in quanto, insomma, tutte quelle cose che fanno di noi soggetti vitali, animali vitali, insomma, e che sono tutte competenze e risorse che vengono catturate, vampirizzate, risucchiate dentro questa macchina, questo dispositivo di captazione del valore o tutto sommato del lavoro che noi espletiamo gratuitamente. In termini marxisti o marziani, questo significa che c'è stato un aumento impressionante del plusvalore estratto dai lavoratori e dalle lavoratrici e nella loro dimensione, come dire, cittadina, di consumatori, non solo in fabbrica ma anche fuori dalla fabbrica. E non a caso si è coniata l'espressione foucaultiana, insomma, di biocapitalismo. Il biocapitalismo è il capitalismo che mette al lavoro la vita, che fa di tutte le risorse, mette a valore tutte le risorse che costituiscono la vita. È come se è un superare quella separazione che invece nel fordismo era ben precisa. Nel fordismo c'era il momento della produzione e il momento della riproduzione, il momento della creazione degli oggetti e il momento del loro consumo. Alle 5 o alle 6 di sera si staccava e quindi si aveva come dire, diritto a un tempo, come dire, libero, che era tempo della propria riproduzione, la riproduzione della propria capacità lavorativa. Comunque era basata su questa distinzione. Nel post-fordismo, nel capitalismo che appunto, ripeto, si instaura, si forgia, diviene a partire dagli anni 80 ad oggi, questa separazione fra vita al lavoro e vita privata viene superata, no? Viene superata attraverso questi modelli produttivi che sono il modello IKEA, ma che è il modello Google, insomma, tant'è vero che proprio alla fine del 2009 è uscito un libro di un autore americano che, per salvare l'industria automobilistica americana, propone di applicare il modello Google, appunto, della copartecipazione, no? di questa cooptazione cooperativa, insomma, di tutti coloro che utilizzano Google, di applicare il modello Google alla industria automobilistica, no? In modo tale che i potenziali acquirenti, consumatori, utilizzatori della Chrysler daranno i loro consigli per introdurre, non so, un certo tipo di GPS posto in un certo punto del cruscotto, in modo tale che lo possa vedere non soltanto chi ha il volante, ma anche chi è, non me ne frega un cazzo, insomma, voglio dire, della Chrysler e del suo futuro, però solo per darvi un'idea di questa stretta collaborazione, cooperazione fra produzione e riproduzione, fra lavoro e vita. È come se tutta la vita fosse messa a lavoro, e questo è particolarmente è vero quando noi ci rendiamo conto, capiamo che nel capitalismo, nel modo di produrre odierno, una delle risorse fondamentali della produzione di beni e servizi, sapete cos'è? È la comunicazione, quindi il linguaggio in tutte le sue forme. Il linguaggio è una delle qualità che fa dell'animale umano un animale umano, appunto, che lo distingue dall'animale non umano. È una competenza universale dell'uomo, il linguaggio, la comunicazione. E poi il linguaggio, tanto per rendere chiara la cosa, cosa fate? La prima cosa che si fa quando si va in ufficio, quando si accende il computer e si va a vedere la posta elettronica, quello è solo l'inizio di tutta una catena linguistica, comunicativa, relazionale, e senza la quale non ci sarebbe nessuna produzione oggi, se solo si pensa alla natura reticolare delle imprese che sono translocali, che sono quindi planetarie, eccetera. La comunicazione e il linguaggio quindi è l'equivalente del petrolio nell'industria automobilistica novecentesca, quindi è una risorsa fondamentale. Però cos'è il linguaggio se non uno strumento che non si stacca mai dall'uomo? Voi quando uscite dalla fabbrica, dall'ufficio, eccetera, non chiudete nello spogliatoio il linguaggio, no? Come si chiudono gli attrezzi del mestiere, la chiave inglese, il numero 25, eccetera, eccetera. E il linguaggio ci sta dentro e quindi ce lo portiamo appresso. E lo stesso strumento di lavoro è uno strumento di vita, alimenta i nostri rapporti, i nostri sogni. Dico sembra che questo fa sì che in realtà non si stacca mai dal lavoro, si è sempre nel lavoro, anche quando non si lavora, no? E questo è il biocapitalismo, il capitalismo che ha fatto della vita una fonte di valore e che autorizza a usare quell'espressione orrenda che è il capitale umano, no? Il capitale umano è il fatto di aver trasformato l'umano nella sua corporeità, nei suoi pensieri, nei suoi sentimenti, nei suoi effetti, in capitale. In capitale e quindi in risorsa produttiva di merci e quindi di valore economico. Ecco, allora, detto questo, il biocapitalismo è quello che ditemi poi quando devo smettere. Il biocapitalismo è quello che ha chiamato in essere, se volete, ha trasformato, e questo è il punto che lì mi sembra piuttosto il più importante per quanto mi riguarda, ha trasformato la finanza stessa. Vorrei cercare di farmi capire a questo punto, perché questo è un punto abbastanza cruciale all'interno del dibattito che c'è fra economisti e non economisti e che c'è da tempo, da metà del Novecento o dalla grande crisi del 29. La finanza in generale è sempre stata vista, a parte da coloro che la finanza la praticano direttamente, ma la finanza in generale è sempre stata vista come una sorta la finanziarizzazione, cioè che cosa? L'investire in borsa piuttosto che in fabbrica, insomma, per essere molto terra terra, è sempre stata vista come una perversione. Il più grande economista del Novecento, John Maynard Keynes, parlava dell'eutanasia del rentier, no? Bisogna praticamente liberarsi di questi rentier, no? Di quelli che vivono senza fare un cazzo, insomma, no? Mettendo i loro risparmi in borsa, intascando la cedola mensilmente o magari facendo investimenti oltreoceano. E c'è una descrizione proprio del tipico rentier inglese, no? Che la mattina si alza, fa la colazione, le sue uova sode al cereghino eccetera, e poi si beve il caffè, legge il Financial Times e va a vedere che cosa ha guadagnato, insomma, il giorno prima, no? E quello è descritto da Keynes, è la figura, insomma, dell'investitore che fa soldi, che produce soldi a mezzo di soldi, no? E quindi non passa dal processo, no, dove ci si sporca le mani, dove si lavora e si producono merci vere, eccetera. Ora, questa interpretazione della finanza va da Keynes ai marxisti, perché Marx stesso analizza nel terzo libro del Capitale la finanza parlando proprio di capitale fittizio, usa questa espressione, capitale fittizio, quel capitale che cresce non perché è cresciuta la ricchezza reale, ma perché si è moltiplicato a mezzo di crediti bancari e di denaro che produce denaro, insomma, naturalmente che produce anche crisi, perché a furia di produrre denaro senza produrre una corrispettiva ricchezza, alla fine si arriva alle famose bolle o alla grande crisi del 29. Ecco. Allora, che cosa, secondo me, di questa interpretazione non è più attuale? Tante cose sono sempre vere, per esempio che diciamo che coloro che aprono la finanza sono generalmente delle persone schifose, no? Delle persone schifose che hanno soltanto il rendimento in testa, il rendimento dei loro investimenti, e sono delle persone, non so se qualcuno di voi li ha mai conosciuti, insomma, o mai incontrate, ma li vedete, sono degli stronzi, sono delle persone con le quali non avresti voglia di andare fuori a cena, parlano solo di quello, sono sempre al telefono per vedere o hanno questi no, i loro iPod per andare a vedere quanto ha reso il titolo UBS o titolo Vate la pesca eccetera, hanno solo quella fissa insomma in testa. Ma vabbè, questo è ancora vero, se volete sarà vero finché esiste il capitalismo finanziario eccetera, però quello che non è più vero secondo me, e vi dico che comunque la mia posizione non è universalmente condivisa o riconosciuta, cioè è una posizione come dire critica all'interno della critica e che però sostiene questa posizione, cioè quello che io cerco di sviluppare in questo librino, che questa nuova finanza, questa finanza che si è sviluppata a partire dagli anni Ottanta, è una finanza che tutto sommato non è una deviazione dall'economia reale, cioè è una perversione, certo, però non è una deviazione, come dire, di capitali che altrimenti sarebbero stati investiti produttivamente, creando occupazione nell'economia cosiddetta reale. Questa finanziarizzazione in realtà è funzionale alla crescita stessa di questo capitalismo post-fordista. Ve lo dico facendo l'esempio seguente. Quando voi avete un capitalismo come quello di cui ho parlato prima, IKEA, non IKEA, il biocapitalismo, guardate che basta andare su in stazione qui a Lugano e comprare un biglietto per capire cos'è. Quando andate a comprare un biglietto, cosa fate cosa siete più spesso costretti a fare? Comprarlo con la macchinetta, giusto? Perché hanno ridotto il personale ai guichet, no? Agli sportelli e quindi hanno sostituito personale con, a fronte dall'aumento comunque della fruizione dei mezzi di trasporto pubblici, con queste macchinette, queste macchine automatiche per comprare il biglietto. Sfido chiunque arrivare un minuto prima della partenza del treno, comprare il biglietto con queste, dove non trovate mai la moneta giusta, la mettete dentro, esce quattro volte eccetera, vi parte il treno e dovete stare lì mezz'ora o tre quarti d'ora a aspettare il prossimo treno. Mia mamma poveretta questa operazione non ha mai potuto farla perché non sapeva come si faceva una cosa del genere. Quindi questo di nuovo è un esempio di messa al lavoro del consumatore di un servizio come quello del trasporto pubblico. Altre cose che vanno tutte nella stessa direzione e che densificano la nostra vita sotto il profilo lavorativo sono i bancomat, ma tutte quelle operazioni che hanno di fatto comportato un'esternalizzazione di funzioni nella sfera del consumo, del consumatore. Ebbene, questo capitalismo è un capitalismo che produce quindi molta ricchezza, molti beni e servizi materiali e immateriali, che proprio nella immaterializzazione dello stesso modo di lavorare, cioè dell'utilizzo delle competenze cognitive, mentali, eccetera, ha trasformato gli stessi beni materiali in beni fortemente o ad alto contenuto di lavoro immateriale. Ma pensate, le automobili valgono molto di più, costano molto di più per tutto il capitale digitale, il software che c'è dentro, che non per la materia prima che è stata utilizzata per fabbricarle. Notate bene, con degli effetti negativi enormi sul piano delle ricadute sull'ambiente. Questo è la faccia materiale dell'immaterializzazione, sono le esternalità negative a tutti i livelli. Guardate che per produrre un computer così, no? Un computer, no, pensavo ci fosse un computer, per produrre un portatile, si producono 2500 litri di acqua inquinante, no? Soltanto per parlare dell'acqua inquinata che è necessaria per produrre un computer portatile. Quindi, e per produrre quello stesso computer, che magari è prodotto in parte al sud, un parte al nord, un parte all'est dell'Europa, per trasportare, no, da un'unità all'altra le parti componenti, le ricadute sull'ambiente, lo sappiamo noi in Ticino, con la nostra autostrada, le ricadute sull'ambiente sono feroci, no? Quindi attenti a sottovalutare questa dimensione ambientale dell'immaterializzazione, no? O meglio, si potrebbe dire, della digitalizzazione del capitale, insomma. Però quello che volevo dire, facendo l'esempio dell'automobile, ma pensate al telefonino: il telefonino ha valore mica per quella scatoletta che è. Tanto è vero che ce la regalano, no? O comunque tendenzialmente ha un prezzo decrescente, ma bensì per il software che c'è dentro. Il telefonino è una macchina comunicativa, ma dove la comunicazione è il valore, non è il hardware, no? La scatoletta che contiene tutti i servizi che il telefonino poi permette di utilizzare. Ebbene, questo capitalismo, che quindi produce una quantità enorme di valore, sia in termini quantitativi ma anche in termini qualitativi, di beni che sono continuamente innovati, eccetera, eccetera, è un capitalismo che produce, dicevamo, profitti sicuramente riducendo i salari, o comunque non adeguandoli a questa crescita, no? E che proprio per questo, proprio per essere realizzati questi profitti, hanno bisogno di una domanda liquida, solvibile, senza la quale non potrebbero essere realizzati. Io posso produrre tutte le automobili che voglio, possono essere le automobili più performanti di questo mondo, più anche ecologicamente sostenibili, insomma, poco importa, posso produrre tutto questo ben di Dio, ma se io non vendo queste benedette macchine, se non vendo questi benedetti telefonini, se non vendo i servizi eccetera, e per venderli ho bisogno di gente che li compra, bisogna avere i soldi per comprarli, cioè i profitti sono potenziali fino a quando non sono venduti, realizzati, insomma, dico una banalità, ma è una cosa da non sottovalutare, proprio per quello che sto dicendo, per dire. Allora, per realizzare questi profitti io ho bisogno di una domanda di questi beni e servizi solvibile, cioè una domanda. Non solo così, perché desidero avere un telefonino, ma però devo avere i soldi per comprarlo. Allora, questa domanda certamente non verrà dall'universo dei salari, che comunque non sono stati adeguati a questo aumento della ricchezza. Vi ricordate questa forbice? Questa domanda verrà da due fonti, principalmente. La rendita finanziaria da una parte, e cioè questo aumento dei redditi conseguiti con attività appunto di tipo finanziario, investendo, vendendo, acquistando titoli, eccetera, e questo spiega l'aumento della domanda sotto il profilo delle rendite conseguite in tutti questi anni, e sono ricchezze pazzesche. Rendiamoci conto che nel capitalismo degli ultimi 20 anni sono aumentati in modo impressionante i ricchi, sono aumentati moltissimo i poveri, ma sono aumentati moltissimo i ricchi. Noi possiamo, se vogliamo, come dire, rappresentare la distribuzione, la configurazione socio-economica reddituale delle società degli ultimi 30 anni, noi abbiamo una società che assomiglia a una clessidra, abbiamo tanti ricchi sopra, tanti poveri sotto e un ceto medio, quello che sta fra i ricchi e i poveri, che si è fortemente compressato, insomma, alcuni sono diventati ricchi ma anche tanti sono diventati poveri, quindi l'altra fonte della domanda, oltre a quella di questi ricchi in aumento, è il debito privato. Il debito privato è quello che è stato praticato in questi ultimi decenni, è stato una delle fonti dell'aumento del consumo. Adesso è inutile ricordare dalle carte di credito in poi, insomma, ma non solo le carte di credito, ma la stessa casa, una casa oggi è una specie di bancomat. Perché? Perché tu, una volta che hai una casa e hai bisogno di aumentare i tuoi consumi, di pagare gli studi dei tuoi figli o degli arretrati di imposte, eccetera, spesso e volentieri puoi farti aumentare il mutuo, aumentare l'ipoteca, senza particolari difficoltà. No, una volta dovevi dimostrare che l'aumento dell'ipoteca, del debito verso la banca, era per rifare la grondaia, per rifare le pareti, i muri, eccetera. Oggi non te lo chiedono neanche, te lo danno. No? In America questo meccanismo, questo remortgaging, no? Questo appunto è una sorta di moltiplicazione dei pani, insomma, questo aumentare il tuo consumo a mezzo di aumento del debito è una cosa assolutamente, o meglio, fino alla crisi del subprime è stata una cosa fortemente praticata. Adesso, naturalmente, in un periodo di crisi il problema è inverso, è come ridurre i debiti che si sono accumulati negli anni, e questo ha degli effetti deprimenti sul consumo, perché ovviamente se tu hai un reddito e non lo usi per consumare ma per ridurre il tuo debito verso la banca o verso il piccolo credito, eccetera, è chiaro che ne risentirà quantitativamente la domanda finale di beni, insomma. L'indebitamento privato è stata l'altra fonte che ha permesso a questo aumento della produzione di ricchezza di in qualche modo essere monetariamente realizzata. Allora, la finanza, questa è la tesi mia, e la finanza è l'altra faccia del capitalismo post-fordista, la faccia monetaria del capitalismo che appunto è venuto affermandosi a partire dagli anni 80. Un capitalismo che si è affermato in questo modo perché è un capitalismo che ha voluto partire dalle ceneri del capitalismo precedente. È un capitalismo che nasce da un preciso progetto politico, quello di distruggere la classe operaia che era venuta affermandosi non solo da un punto di vista produttivo ma anche da un punto di vista politico, sindacale, comportamentale nel secondo dopoguerra, quella stessa classe operaia che aveva fatto le grandi lotte dell'autunno caldo, ma anche le lotte del maggio francese, le lotte dei primi anni 70, insomma, che aveva costruito una sorta di contropotere, quella stessa classe operaia americana, molto poco conosciuta se non dagli americanisti, degli storici del movimento operaio americano, che era una classe operaia che era molto forte all'interno delle grandi imprese industriali e automobilistiche americane, tanto forte che ha impedito all'industria americana, automobilistica americana, di competere con le automobili giapponesi e con la loro riduzione di dimensione, eccetera. Perché? Perché per competere contro i giapponesi avrebbero dovuto riconvertire le linee di montaggio e la produzione stessa, i modelli. Il fatto che la grande automobile americana, no, che oggi sembra un po' un oggetto d'antiquariato, da modernariato, sia rimasta fino praticamente alla fine degli anni 90, cioè cos'è, fino alla metà degli anni 90, insomma, lo si spiega quando poi invece la Giappone, ma la Germania, figuriamoci l'Italia stessa, eccetera, Francia, buttavano sul mercato delle macchine molto più piccole, molto più agili, molto più economiche, eccetera. Si spiega dal fatto che la classe operaia americana era talmente forte con i propri sindacati che queste operazioni di riconversione, ristrutturazione non le ha mica lasciate fare, no? Quindi non le hanno lasciate fare, e quindi hanno continuato a produrre con dei processi produttivi, eccetera, sicuramente superati. Ma insomma, sta di fatto che comunque a partire dall'inizio degli anni Ottanta in Occidente il progetto, politico è quello di distruggere questa composizione operaia del lavoro operaio, questo movimento operaio, ed è proprio quello che si è fatto con questi modelli di esternalizzazione, di minimalizzazione dei processi produttivi, della produzione in rete, eccetera, eccetera, della precarizzazione del lavoro. Non è mica un caso che sia stato sempre più difficile organizzare delle lotte, degli scioperi in questa fabbrica diffusa, insomma, in questa fabbrica despazializzata. Insomma, un conto è organizzarsi nelle officine dove si è lì tutti, un altro è mettere assieme no, il precario, il lavoratore part time, quello che ha contratto a tempo indeterminato, eccetera. Provate a metterli assieme, intanto non trovate l'ora in cui tutti possano trovarsi a fare un'assemblea, eccetera, e poi ci sono degli interessi, dei vissuti, delle percezioni della vita, del mondo, dei problemi talmente diversi, insomma, o differenziati, che è francamente difficile per chiunque volesse opporsi e resistere all'interno di questa nuova configurazione del capitalismo. Sta di fatto che a partire insomma, non dimentichiamoci che sia la signora Thatcher che Reagan hanno esordito, hanno inaugurato la loro stagione politica con due atti politici di fondamentale importanza, sicuramente e concreta e simbolica. Qual è stato? Il aver resistito da parte della signora Thatcher ai minatori, alla lotta dei minatori durata più di 6 mesi, una delle lotte storiche che forse chiudono in Inghilterra la storia del fordismo operaio, insomma, e poi la parte negli Stati Uniti, il rifiuto di Ronald Reagan, appena insediatosi, di scendere a patti o di negoziare con i controllori degli aeroporti che avevano scioperato, appunto, non ho più saliva. Il messaggio era chiaro: d'ora in poi non ci rompete più i coglioni, sindacalisti, operai, eccetera. D'ora in poi le cose le facciamo a modo nostro, no? Questo è il capitalismo post-fordista, finanziario, bio-economico, che dir si voglia, insomma, che si è venuto instaurando. Ed è però allo stesso tempo un capitalismo che nasce anche non solo dalla crisi del fordismo negli anni 70, la crisi del petrolio, la crisi del dollaro, l'inflazione, l'iperinflazione, tutte cose che sicuramente hanno contribuito a indebolire fino a farlo fallire il modello appunto di crescita economica del secondo dopoguerra, ma anche un capitalismo, quello fordista, che tutti noi, parlo di quelli della mia generazione che hanno partecipato o che hanno vissuto in quell'epoca, negli anni 70, fine anni 60 e 70, è un capitalismo che noi tutti volevamo distruggere. No. Guardate che si dimentica spesso che il mondo in cui viviamo oggi contiene una forte ambivalenza. In fin di conti, il mondo in cui viviamo oggi, che come dire, ha preso forma a partire dalla crisi del fordismo, a partire dalla crisi degli anni 70, è un capitalismo che contiene certo questo spirito animale capitalistico del voler fare sempre più profitti, sempre più soldi, eccetera, ma è anche un capitalismo che contiene dei desideri repressi, totalmente traditi, ma che erano dei desideri di superamento del capitalismo fordista. Negli anni 70 le lotte studentesche, ma anche le lotte operaie, erano delle lotte contro la gerarchia di fabbrica, erano le lotte per gli aumenti salariali, ma anche per una uscita dalla fabbrica, per mettersi in proprio, per andare a lavorare senza padroni, erano lotte per la democratizzazione degli studi, perché la gente non voleva come dire, vivere come i propri genitori, dal Gastalani della fabbrica fino da 20 anni a 65, insomma, e quindi si voleva studiare, si voleva imparare, si voleva fare attività artistiche, si voleva fare questo è esattamente quello che il capitale ha capito. Il capitale in quegli anni era disperatamente alla ricerca di modelli nuovi, diversi da quelli che avevano caratterizzato l'economia fordista dagli anni da Ford in poi, insomma, negli Stati Uniti e dalla Seconda Guerra Mondiale in poi, e li hanno trovati nel modello giapponese, ma insomma questo della Toyota, insomma. Ma questo per dire che cosa? Che in quegli anni si era capito che qualcosa non funzionava più dal punto di vista, come dire, culturale, antropologico, politico, insomma, le giovani generazioni, quelle più vive, quelle più innovative, quelle che avevano per prime utilizzato e inventato gli stessi computer. Non so, nella California, a San Francisco, dove venivano usati i primi computer per occupare le fabbriche, per occupare le case, per squattarle, eccetera. La storia di internet, la storia, come dire, le origini di internet nascono lì, da questi movimenti di base, insomma, anarchici, da questi genialoidi che si facevano le canne poi nel garage e poi riuscivano a inventarsi le cose più incredibili. Questa innovazione dal basso, il capitale in quegli anni la intercetta e capisce che è partendo da questi movimenti, da queste pulsioni, da questo rifiuto del modello fordista, che ci si può innovare. C'è un editoriale, quante volte lo ripeto, del Financial Times di quegli anni, che si intitola "Bisogna capitalizzare la rivoluzione", d'accordo? Bisogna trasformare, metamorfosare, insomma, metabolizzare queste spinte dal basso e metterle in forma aziendale, organizzativa, no? Fare della rivoluzione una risorsa produttiva innovativa, ed è quello che è stato fatto. Allora, io perché lo dico? Ma perché dentro in una situazione come quella che ho descritto all'inizio, di bolla globale, di eterno ritorno della logica finanziaria, eccetera, bisogna vedere anche l'eterno ritorno di questa anima sovversiva, che pure è genealogicamente alla base stessa di questo stesso capitalismo. Ecco, è tutto, grazie. Registrazione a cura di Scatola Nera. Il contenitore multimediale. Maggiori informazioni su scatolanera.noblogs.org.